Allora, oggi, come eravamo d'accordo, ti parlerò di alcuni temi trattati nel libro di Krishnamurti, La ricerca della felicità. Vorrei iniziare da pagina 136 di questo libro, vediamo se lo trovo, ecco, dove parla del tema dell'amore e dice: sapete che cosa significa amare qualcuno? Questo diamo per scontato normalmente di sapere cosa vuol dire amare, è un termine di quelli più noti, come camminare, giocare, amare. Ecco, ma in realtà non è così semplice. Sapete cosa significa amare qualcuno? Sapete cosa significa amare un albero o un uccello o un animale domestico? Cosa vuol dire prendersene cura, nutrirlo, volergli bene, anche se magari non vi dà nulla in cambio? Anche se forse non vi fa ombra, né vi segue, né dipende da voi? Bene, la maggior parte di noi non ama in questo modo. Anzi, non sappiamo neanche cosa significa, perché il nostro amore è sempre gravato da ansia, gelosia, paura. Il che indica la nostra dipendenza interiore da qualcuno. Quindi lui collega l'ansia, la gelosia, la paura dalla dipendenza di qualcuno. Non ci accontentiamo di amare, dice Krishnamurti, chiediamo sempre qualcosa in cambio e abbiamo quindi paura di non riceverlo e quindi di non andare in pari e di lì nasce l'ansia. Adesso guardiamo invece questo piccolo schema in cui ci sono dei simboli ormai per noi abbastanza noti, li usiamo comunemente. Allora, questo simbolo è il simbolo del potere. Il potere indica che c'è qualcuno in posizione up, in alto e qualcuno in posizione down, di solito pochi in alto e molti in basso. Bene, questa struttura è una struttura che influenza tutto il vivere sociale. E quando nasciamo, viviamo in un campo saturo di questo schema, la nostra mente viene imprintata da questo schema qua e ci poniamo sempre la domanda, o molto spesso la domanda, ma sono alla pari? O sono inferiore o sono superiore? Sembra una domanda che gli esseri umani si pongono in continuazione. E quindi questo porta le persone a esporsi a un continuo giudizio interiore per dire: ma sono pari o sono meno? O sono di più? Ecco. Quindi che cosa significa? Che le persone si sforzano di essere come minimo pari, se non superiore. E quindi si sforzano, cioè fanno fatica. Ora, in una società come la nostra sembra inverosimile che uno non si ponga questi problemi. Li respiriamo come l'acqua, come l'acqua, no, perché non siamo pesci, no? Respiriamo come l'aria. Oppure per i pesci l'acqua in cui nuotano. Ecco, ma in realtà se andiamo a vedere, e andiamo a vedere che cosa sarebbe la natura umana, non sarebbe guidata da questo schema, bensì da quest'altro, cioè la parità. Cioè tutte le persone hanno pari dignità. Questo è scritto persino nella nostra Costituzione. Cosa vuol dire? Che non sono diverse, che sono tutte uguali? Assolutamente no. Ogni persona è unica, è diversa da tutte le altre, ha le sue caratteristiche. Ma non c'è il concetto di inferiore o superiore. Così come non ha senso parlare di un albero che è superiore a un altro, o inferiore a un altro, o una foglia che è superiore o inferiore. È una cosa veramente demenziale se ci pensiamo. Bene, noi invece gli esseri umani li mettiamo dentro questa categoria, su o giù. Bene, questo nei termini nostri genera continuamente un campo dismorfico, cioè un campo nel quale noi, anziché essere noi stessi davvero e amare noi stessi, come Krishnamurti diceva che è il vero amore. Amore per se stessi vuol dire che ti ami così come sei, senza pretendere nulla da te. Cioè tu ami un albero non perché quello ti dà i frutti, quello è scambio commerciale. Tu non ami una donna perché lei ti dà delle prestazioni o ti aiuta per qualcosa, ma li ami per quello che è. Lo stesso vale nei confronti di se stessi. Se noi invece ci amiamo soltanto se soddisfacciamo certe condizioni, se raggiungiamo certi risultati e altrimenti ci sottoponiamo a giudizio, addirittura ci disprezziamo, ci condanniamo, ci riteniamo inferiori, indegni, beh, è evidente che questo che stiamo facendo è qualcosa di del tutto innaturale, qualcosa che non ha niente a che fare con la nostra natura umana, è qualcosa di culturalmente appreso, e qui si potrebbe chiedersi da quando, alcuni ritengono che sia più o meno una decina di migliaia d'anni, in cui gli esseri umani si sono distribuiti gerarchicamente tra pochi che dominano e tanti che subiscono il dominio. E questa struttura si è così tanto interiorizzata che oggi non ce ne andiamo manco più conto di esserci immersi dentro.